We have had some technical problems. You ready to go? I'm ready to go. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024 parleremo di TV in uno scenario tecnologico che sta rivoluzionando i televisori. Dopo l'alta definizione, il 3D, è il momento delle smart TV. Quando si acquista un televisore, non dico che ancora un po' si muove la famiglia intera, quindi papà, mamma e figli a seguito, ma siamo lì. Ma poi sanno cosa vuol dire effettivamente quello che sentono in giro? No. E poi le notizie più importanti della settimana e la sperimentazione a Milano dell'abbonamento al tram caricato sul telefonino, la rivoluzione Near Field Communication. Io posso poi entrare o in metropolitana, salire sull'autobus o sul tram utilizzando il telefono esattamente come faccio oggi con l'abbonamento, quindi avvicinandolo alla barriera della metropolitana oppure alla convogliatrice. Quattro. 2024 di Enrico Pagliarini. 15:32 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Come la tecnologia ci cambia la vita, e se pensiamo agli ultimi anni, beh, la nostra vita è cambiata molto. Pensate quanto cambierà nei prossimi anni. C'è chi dice che la rivoluzione tecnologica accelera mano a mano che passano gli anni. Vedremo e sicuramente saremo qui a raccontarlo anche nei prossimi anni. Bentornati, sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete scriverci anche durante la trasmissione, ma come sempre vi ricordiamo di chiamare il nostro numero verde per parlare con noi, per le vostre considerazioni, per le vostre domande, 800 24 0024. Quella che avete sentito è una breve anticipazione dei temi di oggi. Iniziamo come sempre con il nostro gioco e i videogiochi, rubrica curata da Stefano Gallarini. Video game. Nuovo appuntamento dedicato al mondo dei videogiochi, e come sempre l'inizio invece lo dedichiamo alla soluzione del gioco che vi vede coinvolti, gioco della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovevate come sempre superare i primi due livelli ed ecco quindi le risposte. Livello 1. Quello degli impiegati è bianco. La risposta era colletto. Livello 2. Per i francesi è la tredicesima. La risposta era re, ovvero la tredicesima carta da gioco di un mazzo di carte francesi. E mettendo insieme le due parole, come si fa in una charada, si ottiene collettore. E il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Così è definito quello che collega il carburatore al motore. La risposta era d'alimentazione, cioè proprio il collettore che collega il carburatore al motore. Complimenti ad Alessandro di Siracusa che si porta a casa il sensore Kinect e due giochi, tutto firmato Microsoft. Però veniamo al gioco di questa settimana. E come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio questa settimana una gift card Euronics da 300 euro da spendere online o in un negozio della rete Euronics. Livello 1. È continuo quello dei giorni e delle notti. Siamo pronti così a parlare del titolo di questa settimana e, viste le vicende di stretta attualità, non potevo che parlare di un titolo che si apre con una dichiarazione di Hillary Clinton. The torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. Home Front inizia con vari spezzoni di telegiornali che raccontano di una Corea finalmente unita che, approfittando dell'indebolimento degli Stati Uniti a causa di una pesante crisi energetica, rende note le sue mire espansionistiche. Così, dal 2012 al 2027, accadono fatti bellici talmente pesanti da mettere in ginocchio una forza mondiale come quella statunitense. North Koreans greet their new supreme leader. Scritto da John Milius, uno fra gli sceneggiatori più quotati di Hollywood, autore tra gli altri di film come Alba Rossa e Apocalypse Now, Homefront vi mette nei panni di un pilota di elicotteri che, rapito dalla sua abitazione, si ritroverà presto coinvolto nell'aiutare la resistenza per combattere il nuovo nemico. Contro il muro! Robert Jenkins, perché sei così restio a servire il paese nel momento del bisogno? Sappiamo bene che hai perso tutto, ma devi ridestare il tuo spirito patriottico per farti forza. Il nostro glorioso leader, Kim Jong-un, vi insegnerà a sfruttare le risorse naturali del paese. Permetterà a tutti di prosperare. È il nostro regalo per voi. Ma tu? Tu ci costringi a mettere in discussione la tua dedizione alla causa americana. Portatelo via! Prima di scoprire cosa accadrà, veniamo al secondo livello del gioco che vi coinvolge e che vi fa portare a casa una gift card Euronics da 300 euro da spendere online o in un negozio della rete Euronics. Livello 2. È libero quello di certi sportivi. Torniamo a parlare di Homefront. Il titolo di THQ, sviluppato da Chaos Studio, è uno sparatutto in prima persona che fa della storia la sua forza principale. Grazie anche all'ottimo doppiaggio e alla vicinanza con fatti di stretta attualità, il titolo disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e PC è entrato a far parte di diritto nell'Olimpo dei migliori giochi di questo tipo fino ad oggi mai realizzati, anche se per qualcuno la storia in modalità giocatore singolo è troppo breve. Vogliono tagliarci la strada! Spero che questa liberazione valga tanto quanto la pagheremo. Devi combattere con noi, Jacobs! Spara, spara! L'intelligenza artificiale del gioco non permette di buttarsi nella mischia e sparare a caso. Bisogna usare tattica e avere pazienza, come se ci si trovasse davvero in un'azione di guerriglia. Due in arrivo dal recinto! Tira alla testa, ogni pallottolo è prezioso. L'azione a più giocatori ha diverse modalità e alcune si differenziano da quelle tipiche degli altri titoli simili. A questo proposito, devo menzionare la nuova modalità Commander, che evita ai più bravi di avere sempre la meglio. Quando si gioca in multiplayer, infatti, molti partecipanti cercano una postazione nascosta e da lì colpiscono i nemici che passano da quel punto e sparano senza timore di essere beccati e avendo quindi sempre la meglio. In questa modalità, invece, chi userà quel tipo di strategia verrà immediatamente segnalato sulla mappa e così i giocatori avversari sapranno dove andare a colpire, obbligandovi di fatto a uscire allo scoperto e spostarvi spesso. Non si torna indietro. Sei macchiato di sangue coreano, ora sei nella resistenza. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa una gift card Euronics da 300 euro da spendere online o in un negozio della rete Euronics. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Era un modo economico di farlo. E adesso la classifica. Quinto e quarto posto per il gioco di ruolo dove potrete essere guerrieri, ladri o maghi. Per Xbox 360, PlayStation 3 e PC, Dragon Age 2. Terzo posto per l'esclusiva Wii, in grado di far divertire tutti, Wii Party. Primo e secondo posto per le edizioni bianca e nera di Pokémon, in esclusiva per Nintendo DS. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Sono le 15:40, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Oggi, nella seconda parte del nostro programma, parleremo di TV. Devo dire che stanno cambiando le cose in modo molto rapido. Pochi giorni fa mi hanno raccontato e mi dicevano che oramai la stragrande maggioranza delle TV si possono collegare ad internet. Per fare che cosa? Anche a questo cercheremo di rispondere. Digital News. Adesso alcune notizie della settimana. Tra le più importanti abbiamo scelto, la prima riguarda i programmi per navigare in internet. Dopo l'arrivo della nuova versione di Internet Explorer, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ricordiamo che Internet Explorer è solo per Windows 7 e Vista, è stata lanciata in settimana la versione 4.0 di Mozilla Firefox, disponibile invece per Windows, Mac e Linux. Molte sono le novità di Firefox che vi invitiamo a scaricare e provare. Digital News. Da ieri sono disponibili anche sul mercato italiano due tra le novità più attese degli ultimi mesi, ovvero l'iPad 2, ci sono state le classiche file davanti ai negozi dell'Apple, e anche la Nintendo 3DS con display cosiddetto autostereoscopico, cioè che permette di vedere immagini in 3D senza occhialini. Due novità di cui abbiamo parlato già in passato e di cui sicuramente parleremo anche nelle prossime settimane. Digital News. A proposito di tablet, dal 19 aprile negli Stati Uniti il produttore del BlackBerry, la RIM, lancerà il Playbook con un prezzo compreso tra i 499 e i 699 dollari. Sul tablet Playbook sarà possibile installare le applicazioni per Android utilizzando un apposito convertitore software. Digital News. Notizia importante che riguarda il New York Times: da lunedì, quindi tra due giorni, 28 marzo, l'edizione online del New York Times diventerà a pagamento. Ci saranno tre tipologie di abbonamento a partire da $15 al mese, mentre i non abbonati potranno consultare gratuitamente un massimo di 20 articoli al mese. Questo limite non esiste invece se si arriva su un articolo tramite un motore di ricerca o un link di un social network, un social media come Facebook o Twitter. Digital News. Sto cercando anche di capire perché questo limite non c'è. Se io clicco su un link e arrivo su un articolo del New York Times, quando lo scopriamo ve lo racconteremo. A proposito di social network, quello dedicato ai professionisti, ovvero LinkedIn, ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di utenti. Lanciato nel maggio del 2003, LinkedIn è attualmente operativo in oltre 200 paesi. In Italia ufficialmente ci sono 1,7 milioni di iscritti. Anche LinkedIn punta ad andare in borsa. Sapete che di questo stiamo parlando già da un po' di settimane. Negli Stati Uniti c'è chi teme e vede dietro l'angolo una nuova bolla delle .com. Comunque, dicevo, anche LinkedIn punta ad andare in borsa nei prossimi mesi. Secondo alcuni analisti, la società avrebbe un valore attuale intorno ai 3 miliardi di dollari. Digital News. Due notizie che riguardano Amazon. L'azienda di Seattle sta per lanciare il proprio App Store. Tenete in mente questa parola, App Store, questa accoppiata di parole, un negozio per vendere applicazioni per smartphone e tablet con sistema operativo Android, targata appunto Amazon. Per attirare il pubblico su questo nuovo store, ci sarà in esclusiva uno dei giochi per tablet più famosi scaricati al mondo, il nuovo capitolo della serie Angry Birds dal titolo Angry Birds Rio. Intanto, secondo Forrester Research, Amazon potrebbe addirittura lanciare un suo tablet basato su sistema operativo Android o Linux. Digital News. Ultima notizia, che però riguarda quello che abbiamo detto prima, in modo particolare l'App Store. Dopo aver letto la notizia, la Apple si è rivolta ad un tribunale perché il termine App Store sarebbe un marchio registrato dal produttore dell'iPhone e dell'iPad. Proprio sull'opportunità di registrare il marchio App Store, che significa negozio per le applicazioni, di fatto, pensate che a gennaio la Microsoft si era opposta e aveva chiesto all'ufficio brevetti americano di non accettare la registrazione dell'Apple perché il termine è troppo generico, un po' come se io andassi all'ufficio brevetti a registrare, che ne so, fruttivendolo. La Apple ha presentato le proprie controargomentazioni, ma la Microsoft dice che sarebbero irregolari. Sentite perché. Perché la Apple avrebbe superato il limite massimo di 25 pagine consentito dalla corte e avrebbe utilizzato un carattere, proprio nella scrittura al computer, un carattere di corpo inferiore all'11, che è il limite accettato dalla corte. Sono le 15:45 minuti, adesso c'è il traffico, poi riprendiamo e parliamo di una sperimentazione estremamente interessante che riguarda la città di Milano, ma in prospettiva riguarderà tutte le persone che hanno un telefonino, cioè praticamente tutti. 2024. Vi ricordo le coordinate per interrogarci in diretta. Il nostro numero verde, chiamateci più tardi, soprattutto per parlare di TV. Oramai parliamo di TV non solo HD e 3D, ma sempre più TV interconnesse alla rete internet. Vi dicevo, il numero verde è 824 0024, oppure gli SMS alle 349 238 6666. C'è anche l'email 2024, quindi 2024@radio24.it. Siamo anche su Facebook, però in questo caso non dovete usare le cifre, ma trovarci con il nome scritto per esteso. Non mi domandate perché, ma cercateci così. 2024 scritto con tutte le lettere. L'11 di aprile inizierà a Milano una sperimentazione che permetterà agli abbonati della rete di trasporto pubblico di accedere ai tram, ai bus, alle metropolitane con un particolare telefonino che sostituisce in tutto e per tutto la tessera, la normale tessera dell'abbonato. Il servizio, nato dalla collaborazione tra l'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici di Milano, e Telecom Italia, si chiama Mobile Pass. Ne abbiamo parlato con Gianpaolo Codeluppi, che è direttore della pianificazione di ATM Milano. Questo sistema di fatto unisce due oggetti che quasi tutte le persone oggi hanno in tasca, ossia un telefonino e delle carte che hanno nel portafoglio, che siano carte dell'abbonamento, come in questo caso della metropolitana, del tram, ma anche delle carte di credito, delle carte di fidelity, ad esempio dei vari supermercati, col vantaggio di avere un display, una tastiera e un collegamento telefonico. Di fatto consente di acquistare un abbonamento dell'ATM, per adesso mensile con tutte le sue forme, ma poi verranno estesi anche le altre tipologie di abbonamento, e di utilizzarlo su tutta la rete di trasporto ATM mediante il cellulare, quindi interagendo in maniera contactless, cioè in maniera con questa tecnologia che è l'NFC, quindi Near Field Communication, con il nostro sistema di bigliettazione elettronica. Sarà quindi sufficiente avvicinare il cellulare ai lettori che sono da tempo installati all'ingresso della metropolitana di Milano o sui bus o sui tram. Il cellulare non solo quindi sostituisce la tessera dell'abbonamento, ma dallo stesso telefono si può acquistare o ricaricare l'abbonamento. Stiamo parlando di una tecnologia che si chiama NFC, che sta per Near Field Communication, comunicazioni a breve distanza. Il sistema è basato su un piccolo chip molto economico e un lettore a radiofrequenza che emette un segnale radio. Il chip può essere inserito in una tessera, e già succede, pensiamo agli ski pass, pensiamo agli abbonamenti della metropolitana non solo a Milano ma anche in altre città, oppure nel caso di questa sperimentazione il chip può essere inserito nello chassis del telefono. È un chip passivo che contiene le nostre credenziali, che quando viene avvicinato a pochi centimetri ad un particolare lettore viene riconosciuto e letto. L'inserimento del chip nel telefono offre naturalmente numerosi vantaggi e apre scenari molto interessanti. Qua stiamo parlando dell'abbonamento per il bus, ma se pensiamo che ad un cellulare NFC può essere accoppiato uno strumento di pagamento, ecco che in questo caso il cellulare diventa anche un sistema per pagare in modo molto veloce, in un secondo. Oggi sono ancora pochi i telefoni dotati di questa tecnologia, in particolare ci sono modelli di Nokia e Samsung. Ci sono già una serie di modelli di telefoni cellulari, di fatto sono telefoni comuni di tipo di mercato che hanno al proprio interno un chip di tipo NFC. È poi richiesto di avere una SIM card particolare che ha al proprio interno un elemento di sicurezza che garantisce tra l'altro che queste transazioni e comunque queste connessioni siano sicure. A oggi per accedere alla sperimentazione, quindi del Mobile Pass, che è il servizio di ATM e Telecom, è necessario avere un account di PayPal o comunque di crearlo al momento. Stiamo comunque studiando anche delle altre soluzioni per offrire ai nostri clienti sempre una maggiore flessibilità anche dal punto di vista dei pagamenti. A brevissimo la nostra intenzione è di portare sul telefono non soltanto l'abbonamento del tram ma gli altri servizi di mobilità di ATM, ad esempio il bike sharing e il car sharing. Immediatamente dopo il passo successivo può essere quello di consentire ad esempio con questo telefono di fare delle transazioni per pagamenti e acquistare ad esempio nei negozi della metropolitana dei beni o dei servizi utilizzando il telefono, facendo ad esempio dei micropagamenti oppure in alternativa accedere ad esempio ad eventi, a musei, a concerti, quindi a servizi della città, sempre utilizzando il telefono in NFC. Ricordatela questa parola NFC, anche se la usano gli addetti ai lavori, però entrerà sicuramente nel linguaggio di tutti i giorni. Sentiremo dire tra poco: io ho un telefonino con il chip NFC, Near Field Communication, e quindi un telefonino che potenzialmente può addirittura diventare uno strumento di pagamento o, nel caso di questa sperimentazione, uno strumento che ha le nostre credenziali relative all'abbonamento ai mezzi pubblici. Ricordiamo che al momento per la sperimentazione è necessaria una utenza telefonica TIM, visto che la collaborazione è di ATM e Telecom Italia, e un cellulare Samsung che viene fornito comunque da ATM. La sperimentazione è aperta ai primi 100 abbonati che aderiranno. Inizierà l'11 aprile, durerà 6 mesi, insomma, quindi ci sarà poi tempo per riparlare di questi servizi, ma è importante sottolineare che probabilmente il 2011 anche in Italia, visto che le cose si stanno muovendo in altri paesi, devo dire che i francesi si muovono molto verso questa sperimentazione, anche perché una grossa azienda che produce questo tipo di chip è francese, quindi ci sono molte sperimentazioni. Dicevo, il 2011 sicuramente vedrà la nascita di altri servizi di questo tipo che passeranno dalla fase di sperimentazione alla fase di commercializzazione. Questo è 2024. Nella squadra di oggi c'è Carmelo Lauricella in regia, che si occupa della parte tecnica, Viola Bottoni che ci aiuta anche con Nicole al centralino e Gianfranco Giardina. Bentornato Gianfranco. Grazie mille, bentornati. Ricordo agli ascoltatori che Gianfranco Giardina è responsabile di un magazine online che è un po' un punto di riferimento, beh, per me di sicuro, per quanto riguarda la tecnologia, l'elettronica di consumo. Anche voi avete parlato del Mobile Pass, di questa sperimentazione interessante, ma come dicevo, interessante per gli scenari che apre. Gianfranco, oggi noi parleremo di TV con, beh, non solo quelle connesse ad internet, ma questa è una rivoluzione di cui vogliamo sicuramente parlare. Ne parliamo anche perché tu sei da poco tornato, fortunatamente prima che accadesse il dramma del terremoto, dal Giappone, dove sì, hai fatto una visita alle fabbriche di TV. Sì, qualche giorno prima del terremoto, dello tsunami, ho visitato alcune fabbriche di pannelli a cristalli liquidi e pannelli al plasma, che vengono ancora prodotti in Giappone, perché le fabbriche sono comunque molto grandi, producono praticamente pannelli per tutto il mondo, per i brand ovviamente che io ho visitato in questo viaggio. Va detto, cosa che non tutti sanno, che poi questi pannelli però partono dal Giappone o comunque dall'Estremo Oriente, dove vengono prodotti così come sono, cioè soltanto il pannello nudo, e tutto l'assemblaggio oramai è fatto localmente, direi nei paesi dell'est europeo, per quanto riguarda tutti i prodotti che ci sono in Italia, quindi tra Repubblica Ceca e Polonia, ecco, più o meno in queste aree avviene poi l'assemblaggio reale del TV. I pannelli invece provengono ancora da fabbriche, sono poche le fabbriche che producono ormai i pannelli, direi non più di 10 stabilimenti importanti, ecco, i più importanti di tutto il mondo. Questo per quanto riguarda i pannelli di grandi dimensioni, quindi quelli per i TV. Noi da questa settimana inizieremo anche a fare una sorta di viaggio nell'Italia della tecnologia, proprio dove i consumatori entrano a contatto con la tecnologia, perché noi parliamo spesso di cose affascinanti, bellissime. Uno poi, dopo aver ascoltato la trasmissione, magari va a guardarsi un sito internet, si guarda le caratteristiche, poi inevitabilmente entra in un negozio anche per informarsi. Allora mi collego con Maria Chiara Grandis, che sarà la nostra inviata in questo giro d'Italia della tecnologia. Ciao Chiara, dove ti trovi? Enrico, buon pomeriggio, io mi trovo a Milano, siamo all'Euronics di Corso Buenos Aires, il nostro Giro d'Italia, il Giro d'Italia di 2024 comincia da qui, resteremo qui per tutto il pomeriggio e noi stiamo cercando di capire come si orienta qui nel reparto audio televisivo la scelta dei consumatori fra tutti i prodotti che il mercato offre. Siamo circondati da TV, da schermi, piatti, grandi, medi, piccoli, e cerchiamo di capire se chi entra arrivi già con le idee chiare, oppure se abbia bisogno di consulenza, se si rivolga ai commessi che sono qui in negozio. Essendo sabato pomeriggio ci sono le famiglie, ci sono gruppetti di amici che vengono anche solo per curiosare fra le novità, e tutti in generale, quello che possiamo dire è che cercano soprattutto di avere un'infarinatura generale, di una panoramica fra i vari prodotti prima di eventualmente scegliere. Allora abbiamo registrato quali sono le domande che chi vuole comprare un televisore rivolge a chi invece le TV le vende. Allora possiamo sentirle insieme. Diciamo che comunque preventivamente cerco di prendere informazioni da internet, giornali eccetera, quindi poi quando vado in un negozio sono quasi sempre già ben determinato su cosa, dove, come, quando. Qualsiasi cosa compriamo prima ce la facciamo provare. Che sia, diciamo che la visione sia non stancante, che i colori siano normali, cioè naturali, e che anche la persona non sia schiacciata, non ingrassi, non schiacci, perché adesso io vedo che le televisioni tutti sembrano tutti piccoli e grassi. È proprio così. In alcuni casi succede questo, che tutti sembrano piccoli e grassi. Allora ci teniamo in mente anche questa sollecitazione di questo consumatore che abbiamo incontrato. Sono le 15:57 minuti, ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024. Io sono Enrico Pagliarini e come poco fa vi avevo annunciato, con noi oggi anche Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato, ci siamo già salutati. Vorrei subito partire a proposito di TV lanciandoti una provocazione. Io dicevo anche poco fa, si rischia di non capirci più nulla. In effetti, le novità, e oggi vorremmo parlare ad esempio delle cosiddette smart TV, connected TV. Noi ne abbiamo già cominciato a parlare un anno fa, ma la novità era ancora a livello, se non proprio di prototipo, comunque uscivano i primissimi modelli. Oggi invece stiamo parlando di una quasi realtà, tant'è che tu mi dicevi che ormai quasi tutte le TV hanno anche una connessione ad internet. Di questo parleremo, però si rischia di non capirci più nulla. Ma sicuramente approcciare l'acquisto di un TV in questo momento è una cosa non facilissima, perché si arriva in negozio, ci trova di fronte a circa 200 modelli, 200 referenze possibili, questo più o meno, almeno nei negozi più forniti. E ovviamente si torna a casa con un apparecchio soltanto. E quindi scegliere il proprio modello può non essere semplice se non ci si è un po' documentati, se non si ha un po' di assistenza durante il processo d'acquisto, quello va da sé. Perché sono così tanti? Non soltanto perché i brand sono molti, i marchi sono molti, anzi adesso sono anche meno di qualche anno fa direi, ma perché innanzitutto ci sono tante dimensioni, no? Quindi ci sono dimensioni di schermo molto piccole, come ci sono sempre stati, però fino alle dimensioni molto, molto grandi. Questi negozi ormai si trovano TV fino a 65 pollici senza problema, e quindi questo dà un po' l'idea di quanto tutti i vari formati di TV possono adattarsi alle singole esigenze dell'utente. Poi ci sono modelli più sofisticati dal punto di vista delle dotazioni e modelli più semplici. Quelli più sofisticati permettono di fare molte cose, per esempio, come hai detto, di collegarsi a internet, ma non solo, per esempio di videoregistrare. Integrano già la funzione di cosiddetta PVR, quindi la possibilità di videoregistrare i programmi TV su dei supporti esterni, che possono essere delle chiavette USB o degli hard disk esterni. E questa è un'altra funzione molto interessante per l'utente, ma che non è così conosciuta e non si conoscono i pregi e anche i limiti magari di questa soluzione. Bisogna documentarsi un attimo prima di potercisi orientare. E poi altri aspetti, l'estetica assolutamente è molto importante, ma vorrei anche soffermarmi un attimo su due aspetti che molto spesso vengono trascurati. Uno è il telecomando, lo diciamo spesso, il telecomando è l'unica cosa che si toccherà del TV, ed è bene che sia possibile vederlo e toccarlo anche e provarlo. E l'audio nei TV, che sono sempre più piatti, è un aspetto che alcune volte viene un po' sacrificato. Se si riesce, prima di acquistare il prodotto, a sentire, avere almeno una sensazione se la qualità audio è buona, ecco, questo è un buon consiglio prima di tornare con un TV bellissimo da vedere ma non così bello da ascoltare. Senti, tu hai accennato alla registrazione. Ricordo che un po' di tempo fa tu dicevi che con la diffusione del digitale terrestre, poi parleremo anche del digitale terrestre, probabilmente ci sarà una limitazione nella possibilità di videoregistrazione. È vero questo? Questo sì, nel senso che già nel protocollo del digitale terrestre è concesso ai broadcaster di inserire un controllo, un bit, cioè quindi un controllo digitale che impedisce la videoregistrazione di determinati programmi che per motivi di diritti e di volontà di non far circolare questi contenuti si vuole, per i quali si vuole vietare la videoregistrazione. E in questo caso questi programmi non possono essere videoregistrati, né che si disponga di un registratore, un, per esempio, tradizionale, un DVD recorder esterno, neanche con questi sistemi di PVR. È una limitazione che in questo momento ancora non è molto attiva, cioè viene utilizzata soltanto sporadicamente per programmi molto particolari, ma che se si volesse, come dire, pensare male e pensare che magari le emittenti volessero spingere su altri tipi di fruizione, parlo per Sky, il MySky, quindi la possibilità di registrare solo sul proprio apparecchio, e per le altre emittenti magari soluzioni simili, per esempio Mediaset Premium che ha alcuni ricevitori con l'hard disk interno, ecco, in questo caso potrebbe anche darsi che nel futuro la possibilità di videoregistrare sia molto limitata. Quindi diciamo che potenzialmente c'è questo pericolo. Sì. Senti, a proposito di TV, visto che è l'argomento che abbiamo scelto oggi, giusto per partire dall'ABC, oggi ci sono due tecnologie che sono plasma ed LCD. Diciamo due cose sulle differenze, insomma, tra questi prodotti. Beh, questa è la domanda del secolo, certo. Ovviamente, per quando si occupa di TV. Non ti ho chiesto se è meglio il plasma, perché... Il plasma è una tecnologia che ha una storia un pochino più lunga, che ha raggiunto dei livelli di maturità forse un pochino prima. In questo momento ha un limite fondamentale, che è quello della dimensione dello schermo. Praticamente, se trascuriamo pochissimi modelli che ormai stanno per non esistere neanche più, il plasma parte da 42 pollici in su. Ha un'ottima qualità d'immagine, ha dei consumi che in alcuni casi possono essere mediamente più alti, ma devo dire non drasticamente più alti dell'LCD, e diciamo che calda un pochino di più e forse in alcuni casi può essere anche un pochino più rumoroso, però è sicuramente una tecnologia molto valida. LCD si basa su un principio completamente diverso, richiede una retroilluminazione, sono cristalli liquidi con delle lampade dietro. Nei casi diciamo più classici le lampade sono lampade a fluorescenza. Negli ultimi anni sono stati introdotti dei nuovi sistemi di retroilluminazione che migliorano la qualità d'immagine, ma soprattutto le performance in termini di consumo, di durata del TV, che è la retroilluminazione LED. Ecco, questo deve essere un fatto molto chiaro: LED non è una tecnologia alternativa ai cristalli liquidi, LED è un sistema di retroilluminazione dei pannelli LCD, quindi i TV a cristalli liquidi esistono o con retroilluminazione, diciamo, tradizionale o con retroilluminazione LED. Tutti i migliori modelli oramai sono LED. Per cui è anche giusto dire che i LED si vedono meglio, ma sì, soprattutto sì, perché sì. Sono tutti top di gamma e gamma media. Sentiamo Carlo che ci telefona da Roma. Buongiorno Carlo. Salve, ho chiesto proprio la differenza tra plasma e LED, in particolare se il plasma stanno ancora un pochino all'avanguardia rispetto come qualità rispetto ai LED. Poi lei aveva anche un'altra domanda, mi scrive. Sì, e poi ecco, se ci possono essere delle conseguenze a seguito di queste radiazioni nucleari che ci sono state in Giappone, insomma, sui componenti elettronici e via dicendo. Grazie Carlo, buon ascolto. Dunque Gianfranco, possiamo dirlo qualche cosa sul se è meglio il plasma dell'LCD? In termini generali. Sì, in termini generali, diciamo, come angolo di visione, come tempi di risposta e come in generale qualità d'immagine, ma proprio sto parlando soltanto della qualità d'immagine, il plasma diciamo un grande riferimento e quindi è sicuramente molto, molto valido. Ovviamente non si può dire che tutti i plasma siano meglio di tutti gli LCD, perché evidentemente esistono LCD fantastici e anche magari qualche plasma scadente. Quindi bisogna sempre andare poi a vedere sul singolo modello. Un TV non va giudicato solo per la qualità d'immagine, è evidente che la qualità d'immagine è un parametro fondamentale, ma per esempio i plasma, se sono utilizzati con per esempio le console videogame, che hanno degli elementi grafici sempre fissi nelle stesse posizioni, possono dare a lungo andare dei problemi di cosiddetto stampaggio, quindi di persistenza dell'immagine. Quindi anche qui vanno valutati tanti parametri nella scelta di un TV. I plasma sono meglio su alcuni fronti, gli LCD sono meglio su altri. Quando avremo una trasmissione di 5 ore li affrontiamo tutti. Sì. Le radiazioni? Il discorso delle radiazioni ancora ovviamente non c'è chiarezza per le radiazioni sugli umani, figurarsi sulla componentistica. Quello che risulta in questo momento per quanto riguarda il Giappone è che per quanto riguarda il Giappone e i TV è che le fabbriche di TV non siano state praticamente intaccate fabbriche di pannelli dal terremoto, dallo tsunami, perché sono quasi tutte localizzate nella zona più a sud, quindi quello di Osaka e dintorni, soprattutto gli impianti di cristalli liquidi. Non si sa ancora bene sui terzisti, sui componentisti, tutti danno rassicurazioni, ma chiaramente questo poi si verrà un pochino più avanti. Qualche dubbio resta sui trasporti, perché ci dicono che i trasporti, soprattutto navali, sono un po' congestionati in questo momento attorno al Giappone, quindi bisognerà vedere se i componenti arriveranno in Europa in tempo. Il nostro numero verde è 824 0024, riprendiamo tra un minuto. Numbers 2024. Numbers. Quanto è cresciuto il settore italiano dei media nel 2010? Numbers. 2024. Nella nostra rubrica Numbers vi abbiamo domandato quanto è cresciuto il settore dei media o media in Italia. È cresciuto tra stampa, radio, TV, internet e tutto il segmento mobile di oltre il 3%, insomma, visto l'anno non tanto positivo per l'economia, comunque siamo ad un buon livello. La componente digitale, che è quella che ci interessa di più, è aumentata del 10%, vale nel 2010 quasi 5 miliardi di euro, pari al 29% del mercato complessivo dei media. I dati sono dell'Osservatorio sui New Media e TV, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Stiamo parlando di TV, una guida anche all'acquisto. Però abbiamo anche il contributo di alcune voci esterne. Maria Chiara Grandis ha sentito Vito Plumari, che è responsabile dell'area Euronics, gruppo Galimberti. Qual è il televisore che cerca un italiano oggi? Ma in assoluto oggi è un LED che oscilla dai 32 pollici ai 40 pollici. Il prezzo non è poi così tanto importante una volta che abbiamo comunque individuato la fascia. Bisogna dire che il 3D, e oggi è la massima evoluzione insieme allo Smart TV, e non ha ancora raggiunto il massimo, perché giusto per darle qualche proporzione, vendite di 100 televisori, 7-8 sono televisori in 3D. Le sembra che i consumatori siano più orientati all'acquisto solo del televisore oppure anche, come dicevamo, a un contorno? Solo del televisore. Quando si acquista un televisore, non dico che ancora un po' si muove la famiglia intera, quindi papà, mamma e figli a seguito, ma siamo lì. Ma poi sanno cosa vuol dire effettivamente quello che sentono in giro? Bella domanda. No, secondo me no. Io parlo sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, no. È una chiacchiera quasi da bar, no? E quindi si raccontano un po', ho comprato il LED, bellissimo, si vede benissimo, un bianco splendido, dei colori brillantissimi, però in realtà non sanno del perché di questo colore, di questa brillantezza. Una domanda legata all'attualità, secondo lei, poiché molta della tecnologia in Italia arriva dal Giappone, il terremoto e gli ultimi eventi che si sono verificati là possono influire in qualche modo su anche le esportazioni, quindi la fornitura di materiale? Io non ho segnali oggi negativi da questo punto di vista. E quindi anche Plumari ci conferma quello che ci diceva Gianfranco, che c'è ancora poca chiarezza, perché non si capisce bene se soprattutto sul fronte trasporti, cioè sul fronte logistico, ci saranno problemi per far arrivare pezzi, soprattutto quelli più pregiati, perché ricordiamo, quelli a basso costo ormai vengono prodotti in Cina, giusto? O comunque Taiwan e altri posti. Sì, assolutamente. Senti, prima Plumari diceva che la grande maggioranza dei clienti che entrano in un negozio chiede LED, che poi abbiamo spiegato, è un LCD retroilluminato a LED. C'è un motivo? Ma il motivo lo dice lui stesso quando ci dice che chiedono le TV LED tra 32 e 40 pollici. Cioè abbiamo detto che comunque i plasma partono da 42 pollici in su. Finché il polliciaggio richiesto è al di sotto di questa dimensione, cioè dei 42, si va sicuramente su un LCD. E ovviamente se si vogliono le migliori performance su un LED, perché come dicevamo, a parte ormai le gamme entry level, è quasi tutto LED. Senti, a proposito di dimensioni dello schermo, mi sembra questo è un motivo di dibattito tra me e te, e mi hai convinto, quindi la prossima TV che comprerò sarà molto grande. Tu dici: non vi spaventate della TV grande. Invece pare che la gente sia un po' prudente, sì, dice: ah no, troppo grande quella TV. Ma tendenzialmente la dimensione del TV, a parte che molti, in alcuni casi è vincolata dall'arredamento, ma ci si spaventa un po' anche perché per motivi, come dire, sociali forse, non si vuole dare impressione che la TV sia un elemento troppo centrale della vita domestica, quando poi magari lo è, sta accesa per 12 ore al giorno. Ecco, però i TV, cioè i programmi televisivi, come quelli anche che stanno scorrendo in studio in questo momento da noi, hanno molto testo che corre, sotto i titoli, i titolini, i tamburini che girano, quindi... Bella grafica. Grafica, e richiede, quindi un TV oggi... anche per le interfacce web di cui abbiamo accennato, le smart TV, non è più un TV da vedere e basta, è un TV anche da leggere. Quindi uno schermo troppo piccolo rispetto a una distanza di visione è dannoso anche per la vista, fatica la vista. Quindi altro che un TV troppo grande fa male alla vista, come si diceva una volta, è perfettamente il contrario. Questo va chiarito una volta per tutte. Possiamo dare qualche... indicazione su quale può essere un ambito tra un minuto adeguato. Vediamo, perché adesso vorrei collegarmi con Maria Chiara Grandis, che, lo ripeto, è la nostra inviata in Italia. Oggi Maria Chiara abbiamo, diciamo, iniziato in modo semplice perché hai fatto pochi, non so se metri o pochi chilometri, però siamo partiti da Milano, ma insomma l'intenzione è quella di girare l'Italia parlando con i consumatori. Allora Maria Chiara, tu hai fatto, mi pare, un'intervista poco fa. Sì, esatto, Enrico. Poco fa noi abbiamo parlato con Andrea Martinotti, che da oltre 4 anni lavora nel cosiddetto settore bruno del punto vendita Euronics di Corso Buenos Aires. Il settore bruno è quello televisivo, audio e video. A lui abbiamo chiesto come si orienta il consumatore nella scelta di una televisione, ma anche chi poi effettivamente fa la scelta della famiglia. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato. Molte le marche, molti modelli e molte anche le estetiche dei televisori, per cui la moda che vuole ultimamente essere presente, è presente anche nella scelta del TV. Noi consigliamo sempre magari di controllare anche la distanza dal TV, la grandezza della stanza, se hanno dei mobili o se comunque c'è luminosità. Troppa luminosità in casa corrisponde a una scelta diversa fra le tipologie dei televisori. Noi parliamo di LCD, plasma, TV in 3D, HD, Connected TV, ma poi chi viene qui conosce il significato di questi termini? Molte volte no. Alcune volte mischiano appunto questi termini particolari, per cui il digitale di terra, il LED, prendi l'antenna diabolica che sicuramente vedi bene. Chi fa più domande della famiglia? Il papà tecnico, molto, molte domande tecniche, però ultimamente diamo molta importanza alla donna, perché la moglie o comunque la ragazza ha sempre qualche piccolo accorgimento della grandezza, dell'estetica, per cui molte volte ci dicono anche di parlare direttamente con la donna, che è quella forse un po' più ostica. L'uomo vuole il TV, lo vuole subito, lo vuole anche bello. La donna è un po' più critica sotto questo punto di vista. Quindi scelgono le donne alla fine? Assolutamente sì, come in tutto d'altronde. Oppure sono abili quegli uomini che credono di far scegliere alla donna, in realtà poi sono loro che gestiscono l'acquisto della TV. Interessante Gianfranco, perché Martinotti diceva, noi diciamo ai clienti che bisogna stare attenti alla distanza di visione. Allora io abbozzo già un'ipotesi: vorrei una TV grande, plasma, molto grande. Qual è la, diciamo, la distanza da tenere in considerazione? Ecco, diciamo che la distanza è la cosa che resta fissata. Di solito non si sposta il divano perché si cambia TV, quindi si parte proprio da quella. Noi ragioniamo in metri. Tutti i TV, invece gli schermi di TV, per motivi ormai storici, sono dati in pollici sulla diagonale, quindi noi parliamo di 42 pollici, di 50 pollici. Allora, evitando tutte le conversioni possibili, semplificando al massimo, noi possiamo dire di prendere la distanza di visione, no? Che quindi per esempio in metri, diciamo 4 metri, la moltiplichiamo per 10 e abbiamo lo schermo minimo che possiamo prendere a quella distanza, cioè per esempio a 4 metri un 40 pollici. Ecco, più piccolo di un moltiplicavo per 10 e trasformavi in pollici. No, okay. Proprio questo qui è fatto per una cosa mnemonica velocissima. Cioè, sì. È un po'... Sì, no, tanto non c'è una regola precisa, perché poi va bene quello che va bene ognuno di noi, evidentemente, ma sicuramente è la dimensione minima, cioè da 4 metri, per stare nell'esempio che stiamo facendo. Quindi 4 metri anche un 50 pollici va bene. Assolutamente, non meno di un 40 pollici. Fino a quanto si può crescere? Si può crescere fino a praticamente moltiplicare, volendo, per 20 la distanza. E quindi fino a 80 pollici? Sì, assolutamente, da 4 metri fino a 80 pollici. Questo vuol dire anche, se prendiamo, non so, un 50 pollici, può essere visto, occhio e croce, da 2,5 metri di distanza fino a 5 metri. Questo è l'ambito in cui si può vedere correttamente un 50 pollici. Oltre 5 metri, un 50 pollici inizia a essere piccolo. Ovviamente tutto è relativo rispetto alla distanza. Un 50 pollici è un grande TV, ma a 6 metri è un piccolo schermo, ovviamente. Molto interessante questo. Questo è un algoritmo made in D-Day.it, Gianfranco Giardina made. Assolutamente sì, ma non è nient'altro che la somma delle conversioni, delle teorie assolutamente ottiche e scientifiche che riguardano la capacità dell'occhio di vedere una determinata risoluzione a una distanza e la conversione tra metri e pollici. Dunque, se abbiamo ancora Maria Chiara Grandis collegata, Maria Chiara, adesso abbiamo un po' di pubblicità. Volevo farti una domanda che non c'entra nulla con le TV, però visto che è notizia di questi giorni che da ieri è in vendita l'iPad e c'è addirittura una persona che, pensate, ha aspettato in fila 32 ore per comprarsi l'iPad numero 2, io non ritengo insomma un gran saggio uno che aspetta 32 ore, si fa la notte davanti a un negozio dell'Apple. Prova a indagare se nel punto dove sei l'iPad è disponibile facilmente, senza farsi 32 ore di fila. La pubblicità. D'accordo. E ci risentiamo tra poco. 2024. Le 16:30, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024. Se volete inviarci un SMS, anche se io preferisco sempre sentire la vostra voce, del resto questo è il bello della radio. In ogni caso 349 238 6666. Con noi oggi Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online D-Day.it, che ci aiuta a capirci qualche cosa di più sulle TV, perché effettivamente non ci si capisce quasi più nulla. Oggi vi abbiamo anticipato che parleremo anche delle connected TV, cioè le TV che si collegano a internet, e tra poco parleremo proprio di questo. Prima però, Gianfranco, volevo rispondere a uno degli ascoltatori che abbiamo, uno dei clienti insomma del negozio che abbiamo sentito poco fa, che diceva, un signore che diceva, uno dei problemi oggi è che tutti si vedono un po' schiacciati, sono tutti bassi, un po' cicciottelli. È vero o non è vero? E soprattutto, ma qual è il motivo di questo problema? Questo è un problema più che di oggi, di ieri direi, legato al fatto che le trasmissioni erano in formato 4/3 e per non avere le bande laterali a destra e a sinistra venivano mostrate spesso anche nei negozi, perché non è mai piacevole vedere un TV con delle bande nere, venivano mostrate con praticamente l'immagine stirata su tutta la superficie, quindi chiaramente deformata. Oggi col digitale terrestre questo non succede più, almeno con i TV che hanno il digitale terrestre integrato, perché le emittenti mandano un segnale digitale sempre che prevede già la descrizione della tipologia del segnale, cioè se stiamo trasmettendo un segnale 4/3 o se stiamo trasmettendo in 16 noni. Il TV, se è messo nella modalità diciamo automatica, come normalmente è, si adegua automaticamente, quindi cambia automaticamente il formato 4/3 e 16 noni per garantire cosa? La cosa che va garantita, che l'immagine non venga mai deformata, eventualmente vengono aggiunte le bande nere ai lati, ma l'immagine ovviamente non va mai deformata. Probabilmente la persona che abbiamo sentito era in negozio per valutare l'acquisto di un TV, avrà un decoder in questo momento e un TV, lo stesso servizio si può ottenere anche con un decoder esterno e il TV, ma bisogna configurare correttamente il decoder esterno, dire che il TV è 16 noni e il TV dire di stare in modalità 16 noni full screen. Allora in questo caso si ha lo stesso servizio anche con i due decoder, ma basta che un'impostazione sia fatta male e le persone ingrassano e quindi si ha poi questo effetto spiacevole che attendere sparirà. Sì, ecco, a proposito, attendere sparirà, perché da un po' di tempo non si parla più di digitale terrestre, se ne è parlato molto 3 anni fa, quando la Sardegna è stata la prima area del paese a passare alla TV digitale terrestre. Se ne è parlato molto quando è passato il Lazio e poi anche la Lombardia con Milano, perché purtroppo questo è un problema dei media. Parliamo a volte troppo spesso di quello che accade in due grandi città, cioè Roma e Milano, ma l'Italia è tutt'altra cosa. E lo ricordo, devono ancora passare al digitale terrestre la Liguria, adesso sto guardando una mappa, vediamo se sono bravi in geografia, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Stiamo parlando forse di metà dell'Italia in termini di chilometri quadrati, di popolazione un po' meno, diciamo, fatto il nord, gran parte della popolazione è passata al digitale terrestre. Due terzi è solo digitale terrestre, gli altri, va detto una cosa, non è che sono solo analogico, hanno già il digitale terrestre, ma in coabitazione con l'analogico, il che crea alcuni limiti perché non sono disponibili tutte le frequenze, quindi non tutti i canali possono ancora essere migrati completamente in digitale. Non c'è stato il cosiddetto switch off. Saluto Davide Rossi, che è il direttore generale dell'AIRES. Bentornato Rossi. Molte grazie, buongiorno. L'AIRES è l'Associazione Italiana dei Retailer di Elettrodomestici Specializzati e voi quasi lanciate un appello, perché io dico, ma immagino che anche voi siate sulla stessa linea, cioè che si sta creando una sorta di digital divide per la TV digitale, cioè stiamo aspettando troppo tempo per far passare un terzo della popolazione al digitale terrestre. Sì, purtroppo sì, vediamo come una sorta di fase di stanca. Noi come slogan abbiamo detto è una cosa buona per il mercato, perché ovviamente noi abbiamo interesse a procedere nelle vendite anche per quella parte di popolazione che ancora non si è digitalizzata, ma è sicuramente una cosa buona e giusta per il paese, perché ci sono canali naturalmente che non possono essere ricevuti in determinate zone d'Italia, e questo è chiaramente un limite importante. Tra l'altro, il 1 marzo scorso c'è stata la convocazione del Comitato Nazionale Italia Digitale, che è questo grande gruppo di lavoro dove il ministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni, che ha mantenuto ha convocato tutte le parti, ha presentato un calendario che ci sembrava interessante, con un'anticipazione alla seconda metà del 2011 per la gran parte di queste regioni indicate, che avete indicato prima, e lì ho visto un fuoco di fila di contestazioni, di rallentamenti, e soprattutto alcune regioni si sono opposte in maniera molto molto forte. Ecco, questo mi sembra sorprendente, perché se io fossi un presidente di regione vorrei che le mie popolazioni, che i cittadini della mia regione facessero questo passo avanti. Visto che voi fate parte di questo comitato, io tra l'altro lo ripeto, ho scherzato anche un po' sul nome di questo comitato, che parla di Italia digitale, allora uno straniero potrebbe pensare si sta facendo un grande lavoro per far decollare un'agenda digitale anche in Italia, pubblica amministrazione digitale, nuova rete in fibra ottica. In realtà stiamo parlando ancora del digitale terrestre, quindi una tecnologia che ormai è un po' vecchiotta. A parte questo, a proposito di queste riunioni, visto che voi fate parte di questo comitato, abbiamo notizie di prossimi e imminenti appuntamenti? Ma siamo in verità in attesa, perché quel giorno fu deciso di dare spazio ad alcuni incontri tecnici, sia quelli che riguardavano questo rapporto con le regioni, sia anche con l'Associazione delle Televisioni Locali, e siamo in attesa di una nuova convocazione che avrebbe dovuto avvenire entro un paio di settimane, ne sono passate ormai già più di 3. Io spero che a breve ci sarà tutto questo, anche se temo, davvero ho l'impressione che ci sia quasi una fase di stanca, come se quello che si doveva fare si è fatto. Ecco, non è assolutamente così, bisogna accelerare. Noi avremmo addirittura auspicato, abbiamo fatto anche un comunicato di supporto rispetto a quanto aveva detto la stessa autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che addirittura proponeva una chiusura di tutto quanto entro il 2011, quindi in anticipo rispetto al 2012, che comunque è la data alla quale l'Europa ci ha obbligato. Ecco, è un peccato che l'Italia debba sempre arrivare all'ultimo minuto a fare cose che altri paesi sono già riusciti a fare con molto anticipo. Rossi, noi la ringraziamo e sicuramente ci risentiremo, perché potrebbe essere un'idea dedicare un approfondimento più esteso al digitale terrestre, anche per non dimenticarsi di questo terzo degli italiani che sono lì in attesa. Presto e buon weekend. Molte grazie, a voi buon lavoro. A proposito di digitale, ma di internet, noi, diceva Rossi, siamo in ritardo nel digitale terrestre, altri paesi invece il digitale terrestre lo hanno già archiviato e stanno facendo grandi passi per un altro tipo di digitalizzazione ben più importante. Questo sta accadendo in Europa, ma visto che bisogna sempre guardare chi fa meglio e non chi fa peggio, Guardiamo cosa succede in Corea del Sud. Pensate che il governo e i due principali provider internet in Corea del Sud investiranno 24 miliardi di dollari nelle nuove reti ultra broadband in fibra ottica da un gigabit al secondo. Entro il 2015 la copertura dovrebbe raggiungere quasi tutte le case. La Corea del Sud è già oggi il paese con la maggiore diffusione di collegamenti in fibra ottica e secondo le previsioni, dopo questo maxi upgrade, l'abbonamento mensile non subirà variazioni e gli utenti pagheranno sempre 20 euro circa al mese. Il governo di Seul ha già investito $1 miliardo in ricerca e sviluppo per avviare la seconda fase di questo progetto e, secondo sempre lo Stato, i nuovi investimenti genereranno almeno 120.000 posti di lavoro. Certo, stiamo parlando di promesse di progetti, però sicuramente l'obiettivo è molto interessante. Ma a proposito di internet, caro Gianfranco, visto che tutti ormai dicono che qualsiasi cosa sta comunque è pronta per connettersi ad internet, mancavano solo le TV e oramai sul mercato quasi tutte le TV si connettono a internet. Sì, vengono chiamate appunto, come dicevamo, Smart TV o Connected TV, sono televisori che hanno una porta di rete Ethernet a filo oppure possono collegarsi tramite una rete wifi, quindi wireless, e si collegano a internet ma anche alla rete locale domestica, quindi si collegano al computer di casa, si collegano agli hard disk di rete se ci sono in casa e a servizi che arrivano da internet, tanto che quasi verrebbe da dire che la presa di rete a tendere diventerà più importante o quantomeno paritetica alla presa dell'antenna, cioè i contenuti non arriveranno più soltanto dall'etere ma arriveranno sempre più da internet. Questo ovviamente già oggi chi vorrebbe, cioè chi volesse intrattenersi con YouTube per esempio può farlo tranquillamente con un TV connesso a internet, può farlo con i video, con i propri video o con dei video che si possono scaricare legalmente ovviamente da internet, può farlo anche con la nuova forma del videonoleggio, quindi il video on demand, quindi acquistare dei film da queste piattaforme che sono disponibili diverse a produttore, ma la sostanza non cambia, e vedere dei film in streaming direttamente da internet, quindi decidere il film e schiacciare play immediatamente, senza nessuna attesa, senza nessun downloading. Possiamo dire, Gianfranco, che sta cambiando non solo lo scenario dei prodotti, ma anche lo scenario dei broadcaster, perché se io sono un grande nome, un grande produttore di TV e faccio un accordo direttamente con chi produce i film, i programmi televisivi, eccetera, eccetera, bypasso le Mediaset, le Sky del quelli mercato. Quelli che sono oggi gli aggregatori di contenuti, cioè, che ben conosciamo. È una prospettiva vera o una mia fantasia? È una prospettiva talmente vera che le emittenti sono un po' corse ai ripari, non vogliono essere disintermediate nel rapporto col fruitore di contenuti. Così abbiamo visto, per esempio, comparire servizi di IPTV, quindi di TV su internet, anche di Rai, per esempio, anche di Mediaset con Premium Net TV adesso permette addirittura di vedere un contenuto molto più ampio di quello che già si vede in diretta sui canali Mediaset Premium, quindi di accedere senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento Mediaset Premium a vasta library di contenuti in video on demand via rete. Rai ha aperto adesso il portale che permette tramite alcuni TV di vedere tutta l'ultima settimana di programmazione, anche questo in video on demand, come se fosse video registrato tutto quello che c'è, quindi l'ultima settimana è sempre disponibile, quindi vuol dire anche l'ultimo TG se arrivo in ritardo e voglio vederlo. Questo è comunque molto comodo e tutti questi sforzi sono proprio tesi a, come dire, ristabilire o rinforzare il rapporto che l'emittente ha con il proprio consumatore per evitare di essere disintermediato poi da queste piattaforme. È una bella lotta, è una guerra aperta in questo momento. Cito, a proposito, giusto per far capire agli ascoltatori che il mercato si sta muovendo, le piattaforme che attualmente esistono. Purtroppo non esiste un'unica piattaforma, quindi sulle TV Panasonic c'è ad esempio il Viera Connect e su LG c'è la piattaforma Smart TV, anche lo stesso nome per Samsung. Sony c'ha Bravia Internet, gli unici che si sono messi d'accordo con una piattaforma comune sono Philips, Love e Sharp, però insomma il mercato si sta effettivamente muovendo. Sentiamo Paolo che ci telefona da Milano, buongiorno. Buongiorno, Senta, io ho una domanda molto semplice. Recentemente, dall'anno scorso, una casa giapponese molto famosa ha messo sul mercato dei televisori LED con il quarto colore, il giallo. Stamattina sono stato in un grande magazzino e me ne hanno parlato molto bene. Volevo sapere il suo parere in merito. Sono quelli che, oltre ad avere il blu, rosso e verde, hanno messo il giallo, sì. Quindi la definizione cambia leggermente. Possiamo anche dire che sono le Sharp. Esatto, Apple, sì. Della Sharp, perché sì, l'ho citato, sì, però sì. Sono quelli. Cosa ne pensa lei? Io non penso nulla. Sentiamo Gianfranco Giardina, che ne sa sicuramente di più. Grazie Paolo, buon ascolto e grazie di averci chiamato, Gianfranco. Il giallo è il colore forse un pochino più come tenue e brillante anche nella stampa, che si fa un po' coprire dagli altri colori. Avere un diciamo pixel, che i colori base normalmente sono rosso, verde, esatto. E blu, con i quali viene fatta la sintesi additiva, che è quella realizzata su tutti i display. Quindi aggiungono luce su questi tre colori. Quando tutte e tre queste componenti sono al massimo della luce, noi vediamo un bianco. Il giallo può cambiare la resa delle immagini e in meglio, perché permette di agganciare un numero di colori sicuramente superiore a quelle che la sintesi RGB pura permette. Quindi il gamut, quello che viene chiamato in termini tecnici gamut, ma che è l'ambito di tutti i colori raggiungibili, aumenta. Questo è da un punto di vista prettamente tecnico e teorico. Resta una perplessità, che è questa. Che cosa farà il TV nell'istante in cui tutto il sistema di ripresa e di messa in onda e di codifica anche sui dischi o più che altro sui file, su qualsiasi cosa, è un sistema RGB? Perché il TV deve prendere un segnale che comunque è RGB, quindi ha quel numero di colori, parte da quello, e dovrà trasformarlo in una sintesi diversa. Probabilmente inventando arbitrariamente qualche tinta. Sicuramente all'occhio il giallo risulterà più brillante. Non mi sento di poter dire che risulterà necessariamente più naturale. Qui entriamo nell'ambito dei gusti, ovviamente. C'è chi vuole tutto molto brillante, c'è chi preferisce un'ottica, se vogliamo, più fotografica, no? O più cinematografica, dove i colori sono più tenui. Se noi andiamo al cinema e vediamo un'immagine proiettata, non vedremo mai quei colori brillanti che vediamo sulle TV di oggi. Quindi qui si tratta semplicemente di scegliere qual è il proprio gusto estetico. Sicuramente il quarto subpixel, giallo, permette di raggiungere colori che gli altri pannelli non possono raggiungere. Io sono per il cinema, mi piacciono molto i colori del cinema. Sono le 16:45 minuti, questa è 2024. Tra poco sentiamo altri ascoltatori, poi ci collegheremo con Maria Chiara Grandis. A tra poco. Numbers 2024. Numbers. Nel 2010 è cresciuta la pubblicità sui mezzi digitali? Numbers. 2024. Nella nostra rubrica Numbers vi abbiamo chiesto nel 2010 quanto è cresciuta la pubblicità sui mezzi digitali in Italia. Buona la crescita, questo è un buon dato. Su internet più 13%, sulle TV digitali più 26%, anche perché di TV digitali c'è stata un'espansione incredibile, nel mondo mobile più 15%. Anche questi sono dati dell'osservatorio su New Media and TV promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Prima ho parlato delle varie piattaforme che sono disponibili oggi sul mercato. Se volete una panoramica, c'è un ottimo articolo scritto da uno dei colleghi di Gianfranco Giardina nella redazione di dday.it, che parla proprio di tutte le piattaforme che esistono oggi per quanto riguarda le connected TV, quindi le TV che si connettono ad internet. Maria Chiara Grandis. Sì, buon pomeriggio Enrico, noi siamo ancora qui. Hai la risposta alla domanda che ti ho fatto prima? Dunque, noi siamo al reparto TV, però vediamo passare davanti a noi molti che entrano per dirigersi direttamente al reparto computer e chiedere l'iPad 2. E cioè, esiste? Esiste, ma ancora non è arrivato. Ah, non è arrivato, quindi effettivamente potremmo anche dire che quello che ha aspettato 32 ore davanti al negozio, pochettino Gianfranco ha fatto quasi bene. Sì, magari aspettava diciamo 72 a casa sua e ce l'avrebbe avuto comunque, però... Dunque, tu hai fatto un po' di interviste? Sì, perché abbiamo osservato come si muove chi vuole acquistare un televisore oggi. L'abbiamo detto, il primo passo è chiedere la consulenza dei commessi presenti, ma poi la scelta è spesso istintiva, ci hanno raccontato, perché in genere si sceglie anche un prodotto che sia bello, oltre che funzionale. Parlavate di TV 3D, parlavate di Smart TV, ecco, queste sono ancora poco conosciute e dobbiamo dire che molti vedono ancora la televisione come un oggetto di arredamento. Ce l'hanno raccontato e sentiamo allora in base a cosa scelgono oggi i consumatori la TV che portano a casa. Per esempio questi due sembrerebbero uguali e ci sono 200 euro di differenza. Anche perché è bello e poi soprattutto se sta bene nel mio posto dove lo devo mettere. L'interesse è quello del 3D, del prezzo. Signora, ma dicono che sono le donne che scelgono il televisore a casa, è vero? No, l'uomo. A casa mia, lui. E in base a cosa lo sceglie? Il prodotto, la marca, la qualità dell'immagine, il prezzo. Sicuramente il formato, il colore dello schermo, queste cose qui, perché mi interessa più il cinema. Sono le 16:50 minuti, tra poco sentiamo Alessio, Giovanni e anche Matteo, grazie a Maria Chiara Grandis che ha iniziato oggi il Giro d'Italia attraverso l'elettronica di consumo. Oggi è stata ospitata dal negozio di Euronics in Corso Buenos Aires a Milano. Proseguiremo in tutta Italia nei prossimi mesi a 2024. Alessio da Milano, buongiorno, benvenuto. Ciao Enrico, ciao Gianfranco, grazie dello spazio. Ti ascoltiamo. Volevo capire, si parla molto di tecnologia 3D, un argomento di cui si è sentito parlare molto nell'anno scorso, soprattutto nel 2010. Rispetto a questo standard, che ora vediamo anche spalmato su tutta la gamma di molte aziende, qual è la tecnologia fra plasma ed LCD che è in grado di fornire le migliori performance e quali sono i vantaggi delle specifiche tecnologie? Gianfranco, grazie. Alessio. Allora, diciamo che il 3D in questo momento potremmo dire anche che l'anno scorso era agli inizi, adesso sta evolvendo, ha ancora qualche limite che va sotto il nome di crosstalk, cosiddetto crosstalk, cioè il messaggio che dovrebbe arrivare solo all'occhio destro arriva un pochino all'occhio sinistro e viceversa. Per fare questo ci vuole che il pannello sia molto veloce, perché in realtà nel tempo in cui normalmente visualizza un fotogramma deve farne visualizzare due, uno per l'occhio destro mentre l'occhialino mi tiene chiuso un occhio e l'altro per l'occhio sinistro. Se questa velocità del pannello di cambiare immagine non è così come dire, tempestiva, io potrei avere delle code di un fotogramma sull'altro occhio che alla fine di tutta questa confusione si sostanziano con una leggera percezione di sdoppiamento dell'immagine. I TV al plasma hanno meno questo limite perché sono più veloci. I TV a cristalli liquidi non è detto che abbiano questo limite perché esistono pannelli molto veloci, ma se un produttore decidesse magari su una gamma un po' più economica di utilizzare un pannello un po' più economico, quindi un po' più lento, ecco che il fenomeno del crosstalk si verifica. Basta guardarlo in negozio, quindi chiedere, vedere, provare il TV, ricordando che anche della stessa marca non tutti i modelli montano pannelli delle stesse performance, e quindi può essere che un modello sia più affetto da crosstalk che un modello ne sia totalmente privo. A proposito di 3D, sentiamo Matteo che ci telefona da Bergamo. Matteo, benvenuto. Tu hai comprato un 3D un po' di tempo fa. Esatto, circa 6 mesi fa ho comprato un 3D, è un 55 pollici e lo guardo da 6 metri, quindi abbastanza distante. Il problema è che dopo circa un'ora e mezza, due di visione delle immagini tridimensionali mi viene mal di testa. Volevo capire se è un problema mio o è un problema dato dall'occhiale attivo o qualcos'altro, non so, chiedo a voi che ve ne intendete. Mm-hmm. Grazie Matteo. Gianfranco, effettivamente uno viene mal di testa dopo un po'. L'occhiale attivo crea una praticamente otturazione alternativa dell'occhio destro e dell'occhio sinistro a velocità molto alte. Una velocità in cui l'occhio non percepisce questa otturazione e quindi non si vede, quindi si vede come se si vedesse a occhio nudo, però qualche fastidio, soprattutto da alcuni occhi, può darlo. Quindi qui diventa un fattore poi molto soggettivo, no? Come qualcuno magari è più infastidito dalle luci intense piuttosto che da altre situazioni. Per questo tipo di utilizzatori sta arrivando sul mercato un sistema differente di visualizzazione di immagini 3D, che è quello con cosiddetti occhiali polarizzati, dove in realtà gli occhiali sono passivi, cioè non creano nessuna apertura e chiusura dell'occhio, ma hanno semplicemente dei filtri polarizzati. È il pannello ad avere una riga polarizzata in una direzione e una riga polarizzata nell'altra. Però se lui ha già un pannello di un certo tipo, si deve tenere con gli occhialini. Si deve tenere con gli occhialini, non può cambiare fino a che non decide eventualmente più avanti di cambiare apparecchio. È un vincolo di quel tipo di tecnologia di visualizzazione 3D, che poi è quella utilizzata in questo momento dal 100% dei prodotti sul mercato, e da fra qualche settimana direi arriverà un marchio che avrà invece anche questi TV, che perdono un po' di risoluzione, quello sì, però guadagnano in termini di comfort di visione. Fra 30 secondi dobbiamo dare la linea GR24, allora io saluto tutti gli ascoltatori che ci hanno chiamato, li ringraziamo, vi invito a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, ci potete trovare digitando 2024 per esteso. Ringrazio Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online di day.it. Gianfranco, ci sentiamo sabato prossimo. Certamente. Grazie anche a Carmelo Lauricella, che si è occupato della parte tecnica di questo programma, e anche a Viola Bottoni, che ci ha aiutato in regia, Giorgio De Luca in redazione. Tutto per questa settimana. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo sabato prossimo tra le 15.30 e le 17. Linea GR24, poi Carlo Genta con lo sport. 2024.